la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui dagli studi della Radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. L'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, per vostre osservazioni, critiche e proposte di temi, intervenendo in trasmissione direttamente. Vado subito all'argomento del giorno. Oggi non parliamo, se non per un minuto, con un mio giudizio, del capovolgimento che è avvenuto sulla vicenda Grecia-Unione Europea. Sapete che stanotte il governo Tsipras, sorprendendo un po' tutti, ha mandato la nuova proposta alle istituzioni europee. In questo fine settimana si attende l'esame e la risposta, perché per questo rinvio domani alle 2 ore che abbiamo, dalle 10 alle 12, ai conti della belva, per poter parlare più in dettaglio della proposta, di che cosa avverrà, dell'accordo che pare si va a chiudere, di che cosa significa questo cambio di posizione inaspettato e molto radicale, vedendo anche i termini della proposta di Tsipras dopo il referendum. Però ne parliamo domani. Diciamo che forse è meglio, devo dire la verità, io sono sorpreso, ma non troppo, perché 10 giorni di chiusura delle banche fanno piazza pulita di tante chiacchiere rispetto alla condizione di un paese. Questa naturalmente è la mia opinione. La mia opinione è che comunque questa proposta, che delude, stupisce tanti che avevano creduto nella spallata decisiva da parte di Tsipras con la democrazia diretta, ai difetti dell'euro che ci sono e come, tuttavia è una proposta che a me lascia, gratta un po' la testa, per così dire, perché credere a un avanzo primario dell'1% quest'anno della Grecia, con gli impegni che esamineremo domani e così via, significa commettere un errore di prospettiva, e mica da parte della Grecia, sapete, da parte di tutti, visto che non sappiamo quanto il PIL scenderà quest'anno della Grecia, quale sarà il deficit vero. Sono tutti impegni, per così dire, pro forma, vedremo, ma questo è stato già l'errore negli anni alle nostre spalle dell'Unione Europea. Il vero problema fondamentale, cioè ristrutturare e ricapitalizzare le banche greche, come si è visto e ha fatto la differenza il problema delle banche, cioè del sistema dei pagamenti, in quel documento non c'è, nell'Unione Europea non si dice come si farà, tenteremo di capirlo entro domenica, perché altrimenti ci saremo da capo a 12, e soprattutto l'Unione Europea e l'Euroarea o mettono mano a regole uguali per tutte, per i salvataggi, visto che i salvataggi si fanno e come, oppure se di volta in volta apriamo trattative arrivando all'oro della guerra civile come questa volta, l'euro e l'Europa comunque non reggono. Ma ripeto, queste sono le mie opinioni e non ne parliamo. Volevamo fare una trasmissione invece oggi sulla legge che degli ordini dei 12 giorni di chiusura degli esercizi commerciali, che inglobava anche i siti di e-commerce, quelli online, se non che stamattina, parlando con i relatori parlamentari, abbiamo l'impegno che io vi comunico che nella legge, prima dell'approvazione, verrà cambiato il testo, e quindi quella cosa non riguarderà i siti dell'e-commerce, e sarebbe stato veramente una follia. Noi, io prendo atto di questo e insieme a voi ci diamo appuntamento per verificare se davvero sarà così. Invece vi chiedo di intervenire sul tema della puntata, e vi presento adesso i due ospiti. Il tema della puntata nasce dal fatto che abbiamo finalmente i dati delle scelte fatte da tutti noi, dai contribuenti italiani, per l'utilizzo del 2 per 1000 a favore dei partiti. Sapete che, approvando la riforma del finanziamento pubblico ai partiti, invocata da chi come me sempre ha richiamato il fatto che gli italiani avevano votato un referendum, l'avevano abrogato e poi lo si reintrodusse come forma non di finanziamento ordinario, ma di finanziamento che veniva travestito da contributo elettorale, ma sempre finanziamento pingue era, quando la riforma con il governo Letta prima e poi fino ai primi momenti di vita del governo Renzi è stato approvato, varò un regime nel quale negli anni di progressivo abbattimento della quota di finanziamento pubblico fino al 2017 subentrava subito questo strumento di scelta diretta dei cittadini dell'utilizzo del 2 per 1000 sul proprio imponibile, incentivato quindi a favore dei partiti. Abbiamo i primi risultati di queste scelte degli italiani, e sono risultati che fanno riflettere, perché sui 41 milioni di contribuenti nel nostro paese, a esercitare la scelta dell'8 per 1000 a favore delle chiese o a favore dello Stato e del 2 per 1000 a favore dei partiti, sono stati in totale, sui redditi 2011, di cui c'è la ripartizione nel 2015, cioè adesso, sono stati 18 milioni e 900 mila contribuenti su 41 milioni. Ma di questi la stragrande maggioranza ha fatto tutt'altra scelta dei partiti, perché a favore dei partiti hanno fatto la scelta pochissimi italiani. e quindi sono andati solo 325.000 euro ai partiti politici, grazie alla scelta dei contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di dare il 2 per 1000 ai partiti, cosa che, se ragguagliate invece alla scelta dell'8 per 1000 sui contribuenti italiani, fa pensare, perché su 1,2 miliardi totalmente attribuiti attraverso la scelta dei contribuenti, un miliardo va a favore della Chiesa Cattolica, per essere chiari, cioè c'è una sproporzione tra la scelta espressa dai contribuenti a favore della Chiesa rispetto allo Stato, che prende pochissimo rispetto alla Chiesa. I partiti prendono meno del pochissimo, come devo dire, cioè sono stati in totale, pensate, solo 16.158 contribuenti su 41 milioni ad avere espresso la scelta di dare il proprio 2 per 1000 ai partiti, facendo a quel punto anche una scelta per partito. E di questi 325.711 euro complessivamente erogati ai partiti attraverso la scelta di questi 16.000 italiani, ben 199.000 euro vanno al Partito Democratico, ben, in realtà pochissima roba, ma 199.000 su 325.000, ripeto, vanno al Partito Democratico. Alla Lega Nord vanno 28.000 euro, a Forza Italia 24.000 euro, a SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, vanno 23.000 euro, alla Südtiroler Volkspartei 16.000 euro e a tutti gli altri vanno spiccioli, cioè poche centinaia di euro, per essere chiari. Fratelli d'Italia 9.000 euro, l'UDC 3.000 euro in tutto, l'Union Valdoten 4.000, quindi pensate, l'Union Valdoten batte l'UDC di Alfano come raccolta. Ma stiamo parlando di spiccioli. Allora, a voi chiedo, non lo avete fatto, immagino, perché non dareste mai un soldo ai partiti? Preferite che lo dia lo Stato? Perché guardate, questo è il problema che pongo agli ospiti, che un bilancio così stretto di entrate aggiuntive espresse dai contribuenti, guardate che porterà i partiti con ogni probabilità a dire che a maggior ragione bisogna ricambiare la legge, ma per reintrodurre il finanziamento pubblico. Per esempio, da questo punto di vista, Sposetti, parlamentare storico, tesoriere delle diverse sigle nel tempo assunte da quello che oggi è il PD, lo disse fin dall'inizio, disse: non illudetevi, la legge che diminuisce il finanziamento pubblico fino a farlo morire al 2017 è sbagliata e vedrete che bisognerà rimettervi mano. Allora, questo diventa il quesito. Nel telefonare voi, e dopo l'interruzione sentiremo la vostra opinione su questi 16.000 italiani che danno solo 325.000 euro ai partiti, mentre con l'8 per 1000 danno un miliardo alla Chiesa Cattolica, sentiamo l'opinione diretta sui quesiti che ho posto a due ospiti politici, perché abbiamo con noi Federico Gelli, che è un deputato del PD, grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. E Laura Castelli, che è deputato del Movimento 5 Stelle, buon pomeriggio e grazie a Laura di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io ricordo che il Movimento 5 Stelle, all'atto dell'approvazione della riforma del finanziamento dei partiti, che lo abrogava spalmandolo nel tempo entro il 2017, introduceva questa forma di incentivo fiscale scelto dai contribuenti, ha votato contro, ma ha votato contro perché considerava la riforma, secondo me ha ragione, una riforma che non affrontava seriamente il problema del no al finanziamento complessivo ai partiti. È così, Laura Castelli? Sì, beh, diciamo che la nostra posizione è stata molto chiara fin da subito. Noi siamo nati dicendo no finanziamento pubblico ai partiti, e quando in Parlamento è stata proposta questa forma, no, del 2 per 1000, eravamo comunque contrari. Noi crediamo che nella politica non ci vadano i soldi dello Stato. Capisco il ragionamento che faceva poco fa, cioè che adesso la politica, quella di sistema, si preoccupi perché il cittadino non vuole dare in maniera spontanea e volontaria i soldi a un partito e quindi probabilmente si inventerà o reinventerà. È quello che io temo, non è quello che io auspico, sì, è quello che io temo. Ricordo, sì, ma infatti il suo ragionamento fila, mi permetto di dire. Io ricordo, e abbiamo tentato di ricordarlo in quell'aula, nell'aula della Camera e del Senato, che i cittadini avevano già scelto se era opportuno o meno che la politica e il bilancio pubblico dello Stato desse i soldi ai partiti, aveva deciso di no. che non era opportuno. Noi crediamo in tutt'altro, crediamo e ne siamo la dimostrazione, perché ormai siamo da un po' di anni, diciamo, all'interno della politica italiana, pur facendola in maniera molto diversa per fortuna, che non sia così, che i soldi, quando togli invece i soldi dalla politica, la politica veramente comincia a funzionare. Noi non abbiamo mai preso finanziamenti pubblici né a livello nazionale né a livello regionale. Abbiamo delle regioni, io vengo dal Piemonte, questa è la seconda volta che il Movimento 5 Stelle è presente in Piemonte e non abbiamo mai preso un finanziamento regionale. Quindi dico, siamo la dimostrazione che la politica si può fare con il volontariato, non con il volontariato del 2 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi, dove insomma la gente magari pensa ad altro, ma con quello fatto per strada, con i banchetti. Li ho fatti da sempre. La forma volontarista, no, ma esatto, devo dire che a me non deve convincere, credo anch'io che a quel punto le buone idee si trovino finanziamenti diretti. Anch'io la penso così, però sono sempre stato in minoranza, devo dire la verità. Ricordo ancora, in termini numerici, ripeto, riflettete voi ascoltatori, mentre con l'8 per 1000 su 41 milioni di contribuenti, ben 15 milioni 185 mila contribuenti hanno scelto la Chiesa Cattolica, 2 milioni 900 mila hanno scelto lo Stato, poi in terza battuta i valdesi, 604 mila a favore della Chiesa Evangelica Valdese e 87 mila a favore dell'Unione Comunità Ebraica Italiane. Per il 2 per 1000 ai partiti, voglio ripeterlo ancora una volta, stiamo parlando in totale di 16 mila persone rispetto a 15 milioni della Chiesa Cattolica e a 2,9 milioni per lo Stato. Allora, la domanda a questo punto a Federico Gelli è: sorpresi di questi numeri? Ve li aspettavate? E a questo punto la politica, i partiti che hanno votato a favore dell'abrogazione nel tempo del finanziamento pubblico e del meccanismo del 2 per 1000, come reagiranno? Diranno che bisogna tornare al finanziamento pubblico, secondo lei, deputato Gelli? Secondo me no, è una scelta irreversibile. Noi abbiamo fatto una scelta importante, abbiamo fatto una scelta di trasparenza nei confronti dei nostri elettori rispetto agli abusi e alle anomalie che si sono verificate nel corso degli ultimi decenni rispetto al finanziamento pubblico, e purtroppo la politica ha dato esempio di sé in maniera negativa in tanti modi, in tante forme, per cui ritornare al passato a mio avviso sarebbe veramente improbabile. No, la cosa che invece bisogna dire è che noi ci aspettavamo di una scarsa risposta da parte dei cittadini. La disaffezione alla politica è un dato oggettivo, vale ovviamente in generale da molti anni, e solo attraverso un percorso di riacquisizione di cose da fare, cose fatte, che si può in qualche modo recuperare un rapporto e una fiducia, e quindi anche un riconoscimento da parte del cittadino. Non si può fare un paragone rispetto alle offerte della Chiesa Cattolica. Questo è il primo anno in cui il cittadino ha davanti l'opzione nei confronti dei partiti, e mettere a confronto un partito con la Chiesa, insomma, obiettivamente è una competizione. Però voglio dire, la sproporzione è tale. Sì. Lei consideri che comunque l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è da moltissimi anni. Non c'è dubbio. Questo bisogna. Ha ragione lei. Nelle serie storiche i dati vanno tarati, quindi non si può fare il paragone tra una cosa che va avanti da molto tempo e una cosa che è all'esordio. Resta il fatto che il Partito Democratico, che per così dire straccia tutti su quei 16.000, beh, ad aver indicato nel 2 per 1000 a favore del Partito Democratico sono 10.157 contribuenti. Devo dire che guardando gli altri partiti poi scappa da ridere, perché a favore dell'UDC sono stati 114 in tutto, cioè, come dire, non mi sembra che neanche gli iscritti, è vero che lei mi può dire, gli iscritti già finanziano con le quote del tesseramento e con il volontariato, ok, però certo i numeri, sia pure all'esordio, sono molto molto molto deludenti. Torniamo anche con le vostre telefonate tra 60 secondi, ora l'informazione sulle strade. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49 primi 25 secondi. Ci interroghiamo su questo primo bilancio dell'attribuzione del 2 per 1000 scelto dai contribuenti italiani ai partiti. Su 41 milioni, 40 milioni 900 mila contribuenti, solo una sparuta minoranza, in totale 16.518 contribuenti, hanno espresso una preferenza per il 2 per 1000 ai partiti, quindi solo 325 mila euro in totale, 200 mila euro, o per meglio dire 199.099 al PD, al resto, per il resto dei partiti stiamo parlando di poche migliaia di euro. Domanda a questo punto, cosa si fa? Si torna al finanziamento dei partiti, oppure i partiti hanno 2 anni di fronte a sé per convincere centinaia di migliaia di italiani e non migliaia a finanziarli, perché altrimenti i loro costi fissi, che sono ancora molto forti, come vedete dai dipendenti in cassa integrazione di Forza Italia, e quei costi non si reggono certo con questi soldi qui. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori con le telefonate. Cominciamo con Ugo da Roma. Ugo, prego. Buonasera. Buonasera. Io penso che la democrazia sia... Ugo, ci dobbiamo richiamare perché non si sente, perché dopo la democrazia è proprio andato via. Gabriele, perdonami, da Padova. Gabriele. Sì, sono qua. Sì. Posso parlare con Giannino? Sono io, no, è in diretta, quindi ci deve dire la sua opinione secca. No, sentite male con prego, Giannino. Prego, prego. Ascolti, una semplice domanda. Se noi dovessimo fare un test, lei dovesse fare un test su 10 persone, a cui chiede per che partito hanno votato, quanti glielo diranno? Secondo lei? No, non lo so, ma comunque in una percentuale non troppo elevata. Però, ripeto, nella scelta del... Lei dice, siccome non è garantito l'anonimato, quindi questo è un disincentivo, è questo? Certamente. La dichiarazione che lei fa al suo commercialista... Non c'è dubbio. No, capisco. Questo è stato uno dei dubbi che c'erano sul 2 per 1000, perché un conto è dire la Chiesa Cattolica o lo Stato rispetto alle chiese, altro conto scegliere il partito politico. Osservazione che giriamo ai nostri parlamentari. Ugo da Roma è tornato, Ugo? Sì, sono qua. Eccoci. Non so se mi sento, adesso la sentiamo meglio, dica. Bene. Io penso che il sistema democratico sia il sistema più caro in assoluto per un paese. Se si vuole la democrazia, bisogna che questa democrazia i cittadini ce la paghino. Non è accettabile altre cose. E non è sul base di volontariato, a me sembra che non sia possibile. Cioè, ma un momento però, se la paghino deve essere una scelta, o lei dice se la pagano attraverso le tasse col finanziamento pubblico? Se la pagano attraverso le tasse, poi a chi vanno devono andare secondo un criterio che sia il più possibile. Quindi lei dice, reintroduciamolo al finanziamento pubblico. Sentiamo Spartaco da Rimini. Spartaco, prego, ha un nome tra l'altro che ci dice dalla tradizione romagnola di questi nomi anarco-ribellisti che a me piacciono tanto. Prego Spartaco. Buonasera dottor Giannino, la ringrazio tanto per avermi chiamato, complimenti per la trasmissione. Vada al punto. Io sono romagnolo per adozione che vengo dall'Albania. Comunque vengo al dunque, a me il 2 per 1000 dai partiti mi sembra una cosa troppo ridicola, e mi dispiace per quei 16.000 persone che ancora non hanno capito come funziona la politica di oggi. Io sono propenso che questi 2 per 1000 o anche più daglielo a associazioni che fanno ricerca sulle malattie. Ma questa è nella scelta del contribuente. Io, a dire la verità, aumenterei l'incentivo a favore delle donazioni per cultura, terzo settore e volontariato. Questa è la mia posizione da sempre. Credo molto nella sussidiarietà che integra l'offerta, che non può essere né esaustiva né soddisfacente da parte pubblica. Però resta il fatto che a questo punto noi dobbiamo chiedere a entrambi i nostri ospiti che cosa si aspettano. Laura Castelli, che cosa si aspetta che avvenga? Lei pensa che in 2 anni i partiti ce la fanno a tirare su, a convincere gli italiani a incrementare per X volte questi 300.000 euro, oppure a quel punto cosa si aspetta? Guardi, secondo me non li potranno convincere, perché il cittadino ormai ha capito che i finanziamenti ai partiti servono a tenere in piedi sistemi che si occupano di poltronifici, di distribuzione del denaro pubblico, come ci ha dimostrato ampiamente Mafia Capitale in questi mesi, e come dimostrano gli arresti di politici con cariche politiche che hanno fatto diciamo così della cosa pubblica cosa loro. Quindi io credo che il cittadino non è stupido e si sta accorgendo di quanto i soldi pubblici siano andati nelle mani sbagliate. Bisognerebbe invece metterle su quello che i cittadini vogliono, quindi la scuola, un reddito di cittadinanza, magari il dissesto ideologico che chiarissimo, in certi fare altre dell'anno. Scelte. Posso chiedere la stessa cosa all'onorevole Gelli? Perché, ripeto, anche secondo me la proliferazione di scandali che continua a Roma Capitale, ma non solo Roma Capitale, uno pensa all'intera giunta calabrese che sta nelle condizioni in cui sta, eccetera, eccetera. È molto complicato credere che ce la facciano i partiti a convincere, a salire quanto serve alle loro finanze, o no? Io credo che debba essere lasciata la libertà di scelta del cittadino, nelle varie forme che il cittadino può esprimere, sia attraverso il 2 per 1000, sia attraverso offerte, donazioni, partecipazioni, sovvenzioni, eccetera. Ma la cosa più importante che non abbiamo detto oggi è che a breve ci sarà una riforma nelle due rami del Parlamento sulla forma partito, perché io vorrei dire alla collega del 5 Stelle che noi siamo l'unico partito che ha un bilancio trasparente pubblicato online, cosa che loro ancora oggi non hanno fatto. Io volevo evitare le polemiche tra partiti, nel senso che io sono convinto che ci voglia una legge per i sindacati e per i partiti, quindi figuri, ha perfettamente ragione, secondo me deve anche tutelare le garanzie di libertà interne ai partiti. Detto questo, il problema del finanziamento resta, il tempo è finito, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però gli italiani hanno fatto una scelta molto chiara e molto critica. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 per parlare di Grecia, pensioni e agenzia delle entrate, i conti della Belva, non mancate!